los invito a bailar sopa de caracol. Guatanegui con su yupi pati, yupi pati, Yuli, Roni, Guanaga. Guatanegui con su yupi pati, yupi pati, Yuli, Roni, Guanaga. Guataguinegui con su guataguinegui, Guanaga. Guataguinegui con su guataguinegui, Guanaga. Si tú quieres bailar sopa de caracol, guatanegui con su yupi pati, yupi pati, Yuli, Roni, Guanaga. Mupe, mupe, guatanegui con su yupi pati, yupi pati, Yuli, Roni, Guanaga. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar sopa de caracol, guatanegui con su yupi pati, yupi pati, Yuli, Roni, Guanaga. Mupe, mupe. Y esto es caramelo caliente. Cumbia. Guatanegui con su yupi pati, yupi pati, Yuli, Roni, Guanaga. Mupe, mupe. Guatanegui con su yupi pati, yupi pati, Yuli, Roni, Guanaga. Guataguinegui con su guataguinegui, Guanaga. Guataguinegui con su guataguinegui, Guanaga. Si tú quieres bailar sopa de caracol, guatanegui con su yupi pati, yupi pati, Yuli, Roni, Guanaga. Mupe, mupe. Con su yupi pati, yupi pati, Yuli, Roni, Guanaga.